Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Due giorni fa, insieme all'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, parlavamo dei disoccupati nell'età di mezzo, tra i 40 e i 55 anni, una situazione purtroppo di cui tanti non parlano e che è piuttosto diffusa e che sta creando anche un po' di allarme sociale. La società sta già cambiando, gli italiani già da alcuni anni hanno cambiato le loro scelte quotidiane anche nella spesa e nelle abitudini alimentari. Ben trovato al Presidente della Dico Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao Mirko, un saluto a tutti gli ascoltatori. Che cosa arriva in tavola dunque? Sempre meno cose, meno di pregio, addirittura anche cose scadute? Beh, sappiamo ormai, Mirko, che le famiglie stanno tentando in tutti i modi individuare ogni giorno delle strategie che le permettano di arrivare a fine mese. Se da un lato si cerca anche di inseguire sempre di più i prodotti in offerta, ed è anche vero che sostanzialmente le famiglie hanno modificato delle abitudini a tavola che una volta sicuramente non sarebbe stato possibile, perché sostanzialmente si mangia meno carne, si mangia meno pesce, si cerca di comprare più l'indispensabile rispetto a quelli che erano prima dei quantitativi, diciamo, unicamente più industriali, dove si cercava di far scorta, eccetera. Oggi sostanzialmente, complice, come abbiamo detto, questa crisi, si spreca molto, però è anche vero che si mangiano cibi più scaduti, i cibi scaduti. E cosa vuol dire questo? Che praticamente anche di fronte a quello che è un alimento che è scaduto, prima di buttarlo via, si annusa e si cerca di mangiare. E a tutto questo c'è anche una maggiore sensibilità ecologica, perché sappiamo che magari si mangia meno, si è più attenti, si spreca meno, però dove è possibile si cerca anche un prodotto più genuino, con un occhio di riguardo sempre anche al biologico. Ben venga sprecare meno, perché negli anni scorsi certamente il cibo che veniva buttato, anche buono, riutilizzabile, era tanto, era troppo. Ben venga che adesso magari, se vediamo mezza mela marcia, buttiamo via la metà marcia ma teniamo quella buona. Questo è un buon cambiamento di prospettiva. Sì, guarda, raccontare un po' come cambiano i costumi nel nostro paese. Questa volta è stato un osservatorio che è stato promosso in collaborazione con le scienze tecnologiche ed agroalimentari dell'Università di Bologna, dove sostanzialmente i dati parlano chiaro. Da settembre ad oggi gli italiani hanno ridotto di più gli sprechi alimentari, ma soprattutto sono molto attenti alle date di scadenza scritte sui prodotti. Diciamo l'8% in più negli ultimi 6 mesi, con un dato che si è attestato intorno al 63%. Però anche di fronte a quello che è un cibo scaduto o mai di sesso aspetto che abbia terminato la sua durata, ad essere un ottimo strumento di fiducia per le persone prima di gettarlo via, è stata un po' il naso che sostanzialmente tutti quanti hanno detto che, infischiandosi un po' delle etichette a termine, si cerca comunque di utilizzare in un modo o in un altro. Quindi ecco, due fenomeni che sostanzialmente sono molto interessanti e anche tra virgolette curiose, perché diciamo che nella crisi si cerca anche di sprecare molto meno. Certo, perché magari si comprano confezioni con più cose dentro, magari rimane in frigo per un po', poi ce ne dimentichiamo e alla fine lo buttiamo via. Questo può essere un buon effetto della crisi? Sì, certamente. Diciamo che poi nell'intervista le persone hanno raccontato che negli ultimi mesi il fenomeno dello spreco sostanzialmente, e qua parliamo di un dato intorno al 70%, ha riguardato soprattutto perché magari le confezioni erano troppo grandi e quindi la parte avanzata ha rischiato di andare a male. Poi c'è un'altra percentuale che ha dichiarato che tendono a recuperare il cibo anche se fa la muffa. La cosa inquietante è che molti cercano di limitare il cibo per paura di non avanzarlo, per evitare la crisi, e questo sostanzialmente è un dato del 41%. Perché? Perché questo campione poi è quello che ha dichiarato di non avere a volte cibo a sufficienza in casa. Quindi anche qui, se da un lato si cerca di non buttare quello che è a termine, perché la data di scadenza indica sempre una data in cui il cibo deve essere consumato, e noi dobbiamo aggiungere che una volta che la confezione viene alterata, quella data comunque si rischia di accorciare. Dall'altro c'è chi veramente, per paura di non avanzarlo, fa proprio veramente centellinando anche l'acquisto della spesa alimentare. Ecco, c'è il famoso avverbio che è scritto, no, sulle confezioni, sia degli alimentari anche dei farmaci, è scritto preferibilmente entro e con una confezione conservata ovviamente nel modo migliore, più corretto, e a confezione chiusa. Il caso famoso è quello dello yogurt, no? Finché, lo dicono gli scienziati, lo dice proprio la fisica, finché il vasetto non si gonfia, lo yogurt è buono, magari sarà un po' meno saporito, però anche mangiarlo forse il giorno dopo la scadenza, cioè dico che la data può essere non così fiscale, oppure no? Beh, anche qualche giorno oltre la scadenza, certamente, pensiamo anche ai formaggi, pensiamo anche ai latte, come hai detto tu, lo yogurt, perché comunque è chiaro che il termine è un termine che sostanzialmente, anche se è indicato, un termine di riferimento, però sappiamo che poi noi abbiamo altri modi per poter verificare la bontà o meno dell'alimento, ed è quello del colore ed è quello dell'odore. Certo, un formaggio, un mascarpone che ingiallisce o dei puntini di muffa su un formaggio, uno sostanzialmente basta che prende il coltello, toglie un po' di puntini e il formaggio ritorna buono, non è proprio certamente da gettare. Per quanto riguarda il yogurt ci sono gli sgonfiamenti, per quanto riguarda il latte c'è l'odore, però certamente la cosa più importante è che se un alimento è conservato bene e la confezione non è alterata, certamente la data, sicuramente, anche se è importante ed è indicativa, ma non diventa una cosa sempre tassativa. Poi nel dubbio, per modo di dire, buttiamolo pure via, però questi dati dimostrano come c'è una maggior sensibilità a buttare via il cibo, e soprattutto anche perché il 50% di queste famiglie intervistate hanno confessato di calcolare male quello che realmente serviva quando faceva la spesa e quando doveva mettere il cibo a tavola. Quindi anche qui una maggior accuratezza su quella che può essere una spesa e una maggior esigenza rispetto a quelle che sono le reali abitudini che stanno a tavola, può cercare di aiutarci a sprecare. Poi concludo anche con una bellissima intervista che abbiamo fatto un po' di mesi fa, dove addirittura annunciavamo come le famiglie in questo periodo di crisi, a fronte di quelli che sono gli sprechi in tavola, si ingegnano anche con delle ricette per riciclare un po' il cibo avanzato, e anche questa è una cosa molto carina, facendo le polpette, certe torte che insomma si possono aiutare a trovare dei rimedi insomma anche per queste cose. È un cambio di prospettiva interessante. Allora, con questo ci lasciamo. Con l'Adico ci ritroviamo settimana prossima con altri due argomenti. Grazie al presidente Carlo Garofolini e buon proseguimento. Grazie a te, Mirko, e un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.